Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Mila, vergogna, forzare Donnarumma a firmare un contratto da 6 milioni l'anno netti, con la forza psicologica, vergogna. Ciao Milan, ma che peccato mortale hai fatto per avere una compagna come Veronica in trasmissione. Mi dispiace tanto per te, oltre al Milan anche Veronica, non te ne va bene una. Ciao! Milan, non ti arrampicare sulle Dolomiti, ha ragione la Gentili. Sinalut, Milan. Su che cosa però, Veronica? Perché non si capisce su cosa. Sai, avevi che... ragione, perché non mi è chiaro. Se uno, secondo, mette me un messaggio così è un po' vago. È una cosa un po' generale, un po' esistenziale. Ah, ha ragione base, la Gentili. Sì, sì. Vale sempre e comunque. È la condizione endemica della Gentili, avere ragione, capito? Sì, come il grigio che va su tutto, ecco. Così. Non ti vedo, cucciolone. No, no, c'è la telecamera che non va, ma vabbè, non ci vediamo, ma ci sentiamo molto bene e ci sentono gli ascoltatori, questa è la cosa. Vicini, vicini, buongiorno a tutti. Siamo qui con i funamboli che sono tornati alle 9 minuti, salutiamo tutti con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, insieme lì a Roma. E uno splendido Alessandro Chiappini informissima. Benissimo, allora... prima di iniziare con tutti i nostri funamboli, vogliamo, Veronica, far risentire una voce, perché è una cosa che mi ha colpito leggendo oggi su Repubblica. Chi ci ha seguito ricorda, ci siamo occupati di questo professore iraniano che però ha insegnato tanto in Italia anche, si chiama Ahmad Reza Jalali, ed è stato condannato a morte, la condanna a morte è uno schifo sempre, comunque, questo è il mio parere, in Iran, perché è accusato di essere una spia di Israele. Adesso non sappiamo i dettagli. Tra l'altro, del processo. Una storia abbastanza paradossale, se non altro nei modi, perché lui si è recato lì per un viaggio e non è più tornato indietro. Questa è stata la. Per cui anche per la famiglia, lui ha una figlia, no? Che noi abbiamo ospitato qui. Come no? Da infatti, noi, c'è una mobilitazione Amnesty International, il senatore Luigi Manconi, che su queste tematiche, non solo su queste, ma su queste è particolarmente mobilitato, attivo, sì. Ed è attivo. Allora noi vogliamo risentire, non so quanto servirà questa voce, questo appello, l'appello della figlia, una delle figlie, Amitis, parlano italiano perché appunto hanno insegnato, lui ha insegnato in Italia, le figlie sono cresciute anche a lungo in Italia. In Italia adesso si trova a Stoccolma la famiglia, sì. e attendeva, purtroppo pare essere confermata la sentenza. Esatto, è stata confermata dall'Iran la condanna a morte, pare che le chance ormai di rivedere la posizione giudiziaria siano svanite. Però l'appello che ha fatto Amitis noi lo vogliamo, e che l'ha fatto per i nostri governanti che aiutino questa famiglia, lo vogliamo rilanciare. Volevo chiedere alle autorità e al governo di aiutarci il più possibile per farlo ritornare a casa e per sospendere la condanna, perché comunque non è giusto che succeda una cosa così a una persona che non ha fatto niente. Non lo so, Veronica, per quanto noi potremo, ripeteremo questo appello anche tutti i giorni, a capire se qualcuno può fare qualcosa, se anche il Papa si è espresso, certo, è vero, l'Iran è uno stato autonomo, ha deciso così, però almeno sospendere la condanna, almeno tramutarla. Si sta tentando in tutti i modi, tra l'altro pare che lui sia stato costretto a firmare delle carte in cui ammettesse, no, in cui ha messo il suo coinvolgimento in queste attività di spionaggio fantomatiche. Speriamo che in qualche modo possa arrivare questa voce. Comunque alle 9:12 minuti, cari amici, Oggi parliamo di tanti temi, uno caro molto a Veronica, ne abbiamo già parlato. Ma tu lo sapevi, no? Mi hanno detto che il giorno di Natale noi facciamo una diretta che dura tutto il giorno. Partiamo la mattina, facciamo l'orario tuo storico, quello di 24 mattino, e andiamo avanti fino alla mezzanotte. No, però a me è capitato di lavorare. A me è capitato di lavorare vari Natali, quando facevo nella redazione News, a te no, credo. E ti sei trovato... Mi è dispiaciuto. Che sappiamo, cavolo, ti mettono intorno a Natale e dici: porca miseria, no, Natale mi tocca lavorare. No, mi era dispiaciuto. È capitato anche a me, perché il teatro, come dicevamo, è un altro di quei lavori, per esempio, che costringe a farlo. Se sei in tournée con uno spettacolo, a Natale lavori. Certo. Però questo non ha a che fare con la tematica nella quale ci stiamo per andare a scannare. No, ma che a scannare? Abbiamo anche il primo funambolo, che è un prete, un sacerdote, quindi non potremo assolutamente scannarci. Se ci accapiglieremo ci darà una soluzione, ma partiamo proprio da lui e raccontiamo di cosa stiamo parlando. Allora, il sacerdote che abbiamo è Don Cristiano Re, che è direttore dell'ufficio pastorale sociale del lavoro della diocesi di Bergamo. Buongiorno Don Cristiano. Buongiorno a voi. Si è espresso con parole molto ferme sulla questione del lavoro a Natale. Ci sono soprattutto molti centri commerciali. A Bergamo ce n'è uno molto famoso, l'Orio Center, attaccato all'aeroporto, uno dei più grandi d'Italia. Non è il più grande, ma è uno dei più grandi, dove c'è una mobilitazione perché alcuni negozi... 280 negozi tra bar, ristoranti, 3.000 dipendenti... Rimarranno aperti a Natale, proprio il giorno di Natale. Don Cristiano. Natale, Santo Stefano e Capodanno. Anche Capodanno, ma Capodanno il 31 o l'1, non lo so, vabbè. Don Cristiano, che cosa c'è che non va in questo? Lei ovviamente è sacerdote, dice la domenica dovrebbe essere dedicata ad altro, Sì, in realtà appunto siamo stati coinvolti e ci siamo voluti coinvolgere volentieri, esprimendo anche noi un parere assieme anche ai sindacati e ad alcune associazioni di categoria in merito a questa notizia che ci è arrivata, senza dire in realtà nulla di nuovo rispetto a quello che sempre abbiamo detto, però ci pare che stiamo andando oltre la misura, andando a rovinare un po' alcuni tempi preziosissimi della vita delle persone, in particolare i tempi della famiglia, della relazione. Nelle feste principali ci pare sia fondamentale poter coltivare questi passaggi. Quindi lei dice proprio è anche un attentato alla vita, attentato nel senso non così, alla vita familiare, alla serenità, allo stare insieme. È un affaticamento grosso, nel senso che già insomma sappiamo che siamo in un tempo dove gli sfilacciamenti dentro alle relazioni, alla comunità, alla famiglia sono facili per tantissimi motivi. Questo forse va ad aggiungersi ancora di più a questi motivi, dove appunto ci piace pensare che ci sia un tempo giusto per lavorare e anche un tempo per godere un po' del lavoro che si è fatto e per sentire questo accudimento rispetto alla dimensione importantissima delle relazioni. Dicevo prima le relazioni familiari, ma anche le relazioni dentro la comunità, le relazioni amicali, tanti aspetti che fanno parte dei bisogni reali e profondi della vita delle persone. Ma anche perché, padre, sembra esserci un po' il sillogismo per cui se non c'è modo di consumare anche in occasione delle festività è come se si perdesse la possibilità di avere un luogo di incontro, di aggregazione, di trascorrere il tempo, e questo un po' veicola un messaggio che può essere pericoloso. Sì, da questo punto di vista mi pare che al di là del fatto in sé, che è comunque da tener presente e che dal nostro punto di vista è comunque grave, c'è proprio questa associazione tra il tempo libero che diventa tempo di consumo, dove mi pare che si debba fare un grosso lavoro educativo, non semplicemente sui datori di lavoro, gli imprenditori che fanno il loro mestiere, ci piacerebbe che lo facessero davvero tenendo presente la vita delle persone, però anche sulla questione dei consumatori, nel senso che a me pare questo mi sembra essere un aspetto davvero fondamentale, perché alla fine dobbiamo renderci conto che se c'è una proposta è anche vero che la proposta si può accogliere oppure no, per cui a me pare che sia un po' nella responsabilità di tutti il dire e sentirsi partecipi o meno di questa Natale. Cosa che condiziona guardi, la vita di altri. Ma infatti la questione, a parte che arriva un messaggio che sembra una battuta ironica del nostro Leonardo Manera, perché Saverio che dice chiedetegli se lui lavora a Natale, non lo so, è un prete, fate voi, magari, no. Magari dirà una mezza messa, insomma, da un cristiano, forse. No, vabbè, ma al di là di questo, io infatti ne faccio intanto una questione di dire, ma io personalmente, Alessandro Milan, non finirò mai in un centro commerciale il giorno di Natale. Cioè, se uno finisce in un centro commerciale il giorno di Natale, o ha proprio dimenticato il regalo della vita, che dice porca miseria, l'ultimo giorno deve... O se no, ma perché uno deve passare il giorno di Natale in un centro commerciale? Adesso, che poi è ancora diverso, però, Alessandro, dal discorso della domenica, no? Su cui già abbiamo discusso, ma la domenica uno dice può essere più o meno giusto, non si ha tempo altri giorni, ma il giorno di Natale... Che fai? Ho capito, però non è che siamo tutti fatti allo stesso modo. C'è magari una persona anche sola, c'è una persona che vuole vedere due luci, che non ha un amico, che non ha un parente. Questo è un discorso ancora diverso, perché allora torniamo al punto di partenza, che poi credo sia anche uno degli elementi, infatti, che venivano portati a favore della tesi dell'apertura dell'Orio Center, che è quello che costituisca un polo aggregativo, un centro multifunzionale. Ma magari, un po' come magari se avesse preso è anche la funzione di quello che era l'oratorio un tempo. No, paradossale, però, pensare che quello che era l'oratorio debba diventare un centro commerciale. Ma questo assolutamente no, ma per carità. Tra le varie marche. Ma io credo che ci sia anche adesso. Io ho detto il regalo dimenticato all'ultimo momento, ma sai quanti avranno il regalo dimenticato all'ultimo momento? Cioè, per i commercianti dell'Orio Center, credo che sarà anche una scelta proprio commerciale, cioè per fare profitto l'ultimo giorno. Questo, Don Cristiano, cos'è? Dobbiamo condannare l'idea del voler fare profitto per un commerciante che sfrutta quelli che all'ultimissimo vogliono fare il regalo? Guarda, io non faccio né l'imprenditore, né il sindacalista, né il politico, però mi pare che questa parola che ha usato lei prima, dono e dono della vita, sia una cosa che dobbiamo continuamente ribadire. Nel senso che a me pare che se il dono non passa attraverso la costruzione di relazioni, e le relazioni si fanno in altro modo dal nostro punto di vista, al di là del commercio, forse c'è qualcosa che davvero non va tanto bene. Non va bene. Vabbè, lei quindi, voi come diocesi di Bergamo, state a fianco dei lavoratori che all'Orio Center, ma ci sono in vari centri commerciali italiani, non vogliono lavorare o protestano, dicono il giorno di Natale è troppo, vorremmo stare a casa? Noi ci siamo confrontati anche i giorni scorsi, non solo con il sindacato, ma anche con alcuni nostri rappresentanti politici, parlamentari, senatori. Mm-hmm. Proprio per provare a costruire assieme dei percorsi che, ripeto, dal nostro punto di vista devono essere anzitutto percorsi educativi. Non nascondo che molti lavoratori si sono appellati anche a noi proprio per trovare un supporto e un confronto su questo tema qua. Questo è arrivato, perché insomma il supporto almeno c'è stato. Un meccanismo un po' è anche quello del ricatto, no? Per cui c'è la crisi, se non vendiamo bisogna chiudere, e quindi poi se noi chiudiamo tu resti a casa. Quindi le persone anche hanno difficoltà a sottrarsi a questa... si trovano sotto scacco. Sì, si tratta proprio di capire... Anche qui, in che modo noi intendiamo il lavoro e soprattutto lo sviluppo? Io credo che se non proviamo a immaginare uno sviluppo sostenibile, e sostenibile vuol dire anche soprattutto il rapporto alla vita delle persone, alla sostenibilità della vita delle persone, a me sembra che stiamo facendo un buco nell'acqua. Lo so, però Don Cristiano, su questo io poi ci siamo accapigliati con Veronica, non lo faremo, se no poi dopo sotto Natale bisogna essere più buoni. Lei giustamente sostiene la sostenibilità, porta avanti i suoi discorsi legittimi, accettabili anche da sacerdote. Io dico, per me e per molti ascoltatori che scrivono, la sostenibilità è anche vada a farsi benedire, nel senso a dire io voglio la libertà di fare quello che voglio, cioè se senza obbligare nessuno, ma se c'è una scelta libera di tenere aperto, io voglio andare al centro commerciale, cioè non mi si deve imporre che non posso farlo per chissà quale principio, ecco. Beh, anzitutto, Sì, anzitutto a me pare che davvero le imposizioni oggi più che mai, soprattutto su questi capitoli, non siano un argomento da trattare perché non attecchisce in nessun modo. Dico però che personalmente io mi farei una domanda: la mia libertà di poter andare il giorno di Natale a fare acquisti implica la deprivazione della libertà di chi è costretto ad andarci a lavorare? Ma costretto. Non voglio utilizzare le parole di Oscar Giannino. Ieri ha detto è costretto. Poi non sei obbligato a lavorare. Alessandro, in un centro commerciale. Se a Santo Stefano tengono chiuso alcuni dei negozi in questo centro commerciale, pagano una sanzione, una pesante penale e rischiano l'estromissione. Questo è un obbligo, è una costrizione. Io non ho la libertà di scegliere se no, rimanere aperto mi asponte o meno. Ma questo discorso l'abbiamo già fatto, cioè se tu lavori in, però ora stiamo in trattando un centro questo. Commerciale, sai che corri il rischio di lavorare anche a Natale, se no lavori, come dire, cerchi di lavorare alle poste e sicuramente alle poste a Natale penso. La faccenda è che è un discorso che ha portato alle estreme conseguenze, perché i cedimenti progressivi che ci sono stati sono passati da due domeniche in cui uno lavorava, poi sono diventate quattro, poi il 2 giugno ogni santi, poi c'è stata la Sana, l'Immacolata, Ferragosto, infatti l'amico tuo. No, eccoci qua. Allora, io non difendo sempre tutto e comunque a prescindere, per cui su questa cosa sono estremamente contraria. Per dimostrare comunque Don Cristiano Re, noi la ringraziamo, insomma, il dibattito tanto qui Veronica continua. Ringraziamo Don Cristiano che lavorerà a Natale, vogliamo ricordare agli ascoltatori. Ma c'è chi mi dice Milan, ti auguro di non avere bisogno di un medico o di un poliziotto a Natale, a parte che spero di non averne bisogno davvero e ti ringrazio caro ascoltatore, ma a parte che al limite questo discorso dovresti farlo a Veronica, non a me, io sostengo la libertà di lavorare quando pare a uno. Cioè, poi c'è quelli sono lavori pubblici, c'è un fraintendimento, però rispetto al messaggio che di un ascoltatore che si chiede perché Veronica e il prete debbano forzarlo a vivere come noi non vogliamo forzare nessuno, vorremmo evitare che alcune persone siano forzate a vivere come altri pretendono, invece essendo costretti a lavorare nei giorni della festività anche se non vogliono e non lo desiderano, perché poi progressivamente togliendo, cioè sono rimasti tre giorni che sono tre giorni teoricamente in cui tutto è chiuso istituzionalmente, togliendo anche quei tre abbiamo tolto definitivamente tutto, cioè progressivamente non esistono più giorni di chiusura istituzionali. Qui nessuno forza nessuno, si portano avanti delle idee, poi sono condivisibili o meno, e i nostri ascoltatori sono qui appunto a dirci se sono d'accordo o no, chiamandoci all'800240024. Però Veronica, dobbiamo cambiare tema, rimanere nell'ambito del lavoro, ma ci ha incuriosito una storia funambolica davvero questa è veramente funambolica. Il prossimo ospite, eccolo qua, è con noi già, si tratta di Yuri Invelenato. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi e grazie di averci chiamato. Allora, è titolare di un'azienda produttrice di ghiaccioli, La Bomba, perché tra l'altro siamo molto incuriositi, li abbiamo visti, sono proprio a forma, sono bombati, ecco, ghiaccioli, esatto. Non la classica forma un po' longilinea, ma bombati. Siamo a Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini. Esatto. E ci ha incuriosito perché abbiamo letto sul giornale con un ricorso, adesso ci spiegherà senza entrare troppo nei tecnicismi ma aiutarci a capire, avete fatto un ricorso contro la Unilever, che è la grande azienda multinazionale che ha dei gelati come il marchio Algida per esempio, e avete avuto dall'antitrust un qualcosa assolutamente a vostro favore, per cui la Unilever sarebbe costretta a pagare una multa milionaria. Perché? Perché tutto nasce da una, diciamo, una posizione in cui io e il mio socio Carletti Walter abbiamo rilevato l'azienda e alla partenza abbiamo, diciamo così, diffuso il nostro prodotto artigianale, e all'inizio grandi problemi non ce ne sono stati. I problemi sono nati quando stiamo, diciamo così, cresciuti e l'azienda concorrente, in questo caso Unilever, Algida, ha di fatto impedito ai nostri clienti, con dei contratti escludenti, con clausole di esclusiva, di farci vendere il nostro prodotto. Quindi davanti alla fornitura del nostro prodotto il cliente diceva vorrei ma non posso, e quindi noi ci siamo visti piano piano sgretolare questo sogno di far diventare questa piccola azienda un'azienda un po' più grande. Sì. Non riuscivamo più a vendere. Però avete fatto davvero, qualcuno ha detto, come Davide contro Golia, cioè avete sconfitto il gigante, no? Più che altro anche molto coraggio, perché pensare di intraprendere un'azione di questo tipo, uno in partenza dice capirai, sarà un'impresa titanica, invece... Ma guardate, la cosa più incredibile è stata proprio questa, nel senso che quando noi siamo partiti con la segnalazione in quanto vi è un ente, per fortuna, l'antitrust in Italia, e qui mi permettetemi di dire l'antitrust ha fatto un lavoro incredibile, che comunque deve tutelare i diritti dei lavoratori, perché io e il mio socio siamo due imprenditori, ma prima di tutto ci consideriamo due lavoratori, visto che andiamo noi coi mezzi a consegnare il gelato direttamente. E questi signori hanno fatto un lavoro incredibile. Noi abbiamo pensato che quello che facevano questa azienda concorrente era non regolare, e abbiamo pensato di fare una denuncia. La denuncia, davanti a delle documentazioni raccolte, diciamo delle prove, e ha portato a questo provvedimento che, per quanto ci riguarda, è un provvedimento incredibile. E beh, perché ricordiamo, Unilever è stata sanzionata dall'antitrust, ora faranno ricorso ovviamente a pagare, certo, 60 milioni di euro, grazie, esatto, alla vostra segnalazione. Sì, 60 milioni di euro. Anche se mi posso permettere, trando la cosa più importante, noi non è che avevamo, chiaro, la volontà di farli sanzionare, di fare, certo, esatto, non ci interessava assolutamente. Noi abbiamo chiesto semplicemente il diritto al lavoro, che credo che sia un diritto di tutti, sacrosanto, soprattutto di coloro che il lavoro se lo creano da soli, perché noi facciamo dalla produzione alla distribuzione direttamente. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno fare questo, e le istituzioni, posso hanno dirlo, ascoltato, hanno ascoltato. Hanno ascoltato, e questa è veramente l'Italia che funziona. È vero che avete fatto tutto da soli, cioè non avevate neanche l'avvocato? Nessuno. Cioè i gelati e l'avvocato vi fate, no? I gelati e io e il mio socio, esattamente così. Ma portando quello che erano, secondo noi, le nostre ragioni vere. Cioè noi abbiamo pensato, perché devo prendere un legale quando sono il giusto, no? Io dico sempre, faccio questo esempio stupido: se passi col rosso, sì, sei passibile di multa. Sì, certo. Ci passi una volta, ci passi due, prima o poi la paghi. Noi non siamo passati col rosso, noi siamo passati col verde. Ma quindi, mi tolgo una curiosità: l'atteggiamento dei baristi, degli esercenti vari, qual era nei vostri confronti rispetto a questa, chiaramente a questa polemica che c'era? Ma guardi, in realtà era molto diverso per tutti, in quanto c'era chi aveva un atteggiamento positivo nei nostri confronti, in quanto credevano che fosse giusto che noi avessimo il diritto a vendere, eccetera. C'era qualcun altro che diceva, ma sai, loro... La cosa più assurda è che tutti ci dicevano, perderete, perché andare contro un'azienda così grande siete dei matti. Ma tutti, che coraggio che avete? Io dicevo, ma scusate, ma qual è il coraggio? Cioè, bisogna avere far valere il proprio diritto. Ho capito, ma però ragazzi, insomma, andare contro, adesso voi giustamente avete avuto ragione, ma andare contro una multinazionale, insomma, un po' di coraggio ci vuole. Ci vuole. Sì. C'è altro, ci arriva Morena, buona la bomba, è un ghiaccio granuloso. Ottimo, adesso facciamo lo spot alla bomba. Va bene, lo spot alla bomba. C'è un altro messaggio che dice: la bomba è famosissima sulle spiagge di Rimini. È famosissima, sì, sì, ma non lo era più. Sì. No. Evidentemente, nel senso che se avrà una tradizione evidentemente, sì, storica importante. Sì, diciamo che sul mercato riminese, per nostra grande fortuna, essendo comunque un prodotto che è quasi 60 anni che esiste, diciamo così, siamo abbastanza conosciuti e famosi e riconosciuti per questo. Ma avete guadagnato qualcosa da questa situazione? C'è anche denaro, soldi, posizioni di mercato? Cosa? No. Allora, per quanto riguarda soldi, assolutamente no. Milan sperava che la sanzione arrivasse direttamente a voi, no? No, magari, no. Girato, magari, no. A quest'ora parlavamo di essere in Thailandia o in vacanza. A quest'ora altro che fare i ghiaccioli, ma come, capito? Ma come? Tutto il valore imprenditoriale, no, le cose, no, no, te ne vado in dopo. Thailandia con i soldi. Siamo no, sempre quello, nella rubrica. Sì, sì. La sì, quello che c'è serve dopo, perché adesso c'è le vacanze, quindi c'è l'inverno, il ghiacciolo non si vende. Giustamente, uno va in Thailandia, poi torna. Sì, tra l'altro, guardi, no, noi scherzando, caro Yuri, visto che siete dei piccoli imprenditori, piccoli e medi imprenditori, la nostra Veronica Gentili, nella rubrica sempre Averò che te serve, cerchiamo delle cose, però insomma, magari la bomba arriverebbe un po' squagliata se gliela mandiamo. Dobbiamo organizzarci un attimo, Yuri, per fare questo trasferimento di ghiaccioli. No. Lo faremo fare dal nostro distributore di Milano. Però è molto interessante. Allora, c'è da dire che l'Algida che abbia fatto ricorso al TAR, che non vogliano pagare così senza ovviamente fare tutto il percorso giudiziario. Però ecco, voi traete una cosa bella, ci ha detto. Cioè, questa è l'Italia che funziona. Cioè, l'idea che il vostro valore imprenditoriale sia stato riconosciuto in qualche modo. Assolutamente, assolutamente sì. Perché il nostro intento è quello, ovviamente, funzione di tutto ciò che sono i nostri investimenti, perché comunque noi in questi anni, pur di combattere, diciamo, questa difficoltà? Sì, la struttura, l'azienda, sì. I mezzi, nelle persone. Sì, perché certo. Volevamo cercare di risponderci. No, c'è il cellulare che un po' va e viene. Comunque ci scrivono anche la bomba all'anice, c'è il top. E quel gelato come la settimana enigmistica vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Oh, io non la conoscevo. Viva la bomba, punto, i miei figli sono necessaria, grandi. Certo, i miei figli grandi consumatori durante l'estate a Pinarella di Cervia. Questo aperto a Pinarella di Cervia. Diamo, se lo segni Iori, per favore. Ci mancherebbe, sì, sì. Lo mettiamo come appunto. No, comunque Iori Invelenato, noi la ringraziamo perché grazie è una storia imprenditoriale, in realtà, ripeto, ci ha colpito perché arrivare a condannare 60 milioni dall'antitrust l'Algido Unilever ni l'impossibile volenti chi è? Capito. Esatto. Siamo al momento della grande cultura. Grazie. Mi permettete di fare un ringraziamento? Come per no? Cortesia, ecco, vorrei ringraziare tantissimo tutti coloro che si sono adoperati per noi da parte dell'antitrust per arrivare a questo provvedimento, perché credetemi, hanno fatto un lavoro importante di raccolta, certo, di dati, documenti. Non può ringraziare l'avvocato perché non ce l'avevate. No, l'avvocato non l'avevamo, certo. Ringraziamo noi stessi. Voi stessi, giusto. L'abbiamo patito sulla pelle in questi anni, quindi vabbè. Il risultato ci porta un po' di soddisfazione. Ecco. Credo anche molto. Davvero, buon Natale, la ringrazio. Allora, grazie, noi complimenti, dobbiamo andare. Prenderemo esempio. Grazie, pensavo prenderemo la bomba. Dobbiamo anche andare, la bomba, quella. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi ripartiamo anche gli ascoltatori, molti ovviamente sulle domeniche, si lavori non si lavori, state lì perché ritorniamo. Aspetta che voi. Io durante la pubblicità mi scrivo la giornata di Natale che dobbiamo fare, sì, il programma. Guarda che dobbiamo fare uno giorno. Speciale il giorno di Natale. Quindi sì, ma non lo facciamo il giorno va bene, di Natale. Lascia fare. Ciccetto, purtroppo. Se ne stiamo qui il giorno di Natale, a me va bene. A me è capitato, dai, pubblicità. I funamboli. Milan, è chiaro che lavorando anche a Natale ci stiamo avvicinando sempre di più agli animali, eh? Eccoci qua, il nostro ascoltatore. Allora, c'è Renata da Bergamo. Grazie intanto agli ascoltatori per la pazienza. Chiediamo se possono essere veramente concisi. Renata, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io invitavo tutti i cittadini di Bergamo in provincia a non andare né sabato né il giorno di Natale né il giorno di Santo Stefano. Mi sembra la cosa più logica. Se non guadagnano l'anno prossimo non riapriranno di certo. Sì, sì, cioè lei dice non andate così. E vabbè, ma questa è una forma di boicottaggio attivo. E infatti uno è liberissimo di farlo. Va bene, Renata. Renata, vedremo quanti appello. Condivideranno il suo appello. Io sarei d'accordo con lei. Perché però con lo stesso principio, se invece ci sarà il giorno di Natale strapieno, il commerciante si fregherà le mani e l'anno prossimo raddoppierà le aperture, no? In nome di questa scelta libera. Michele, sì, da Napoli, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, allora spento la radio in modo da poter, grazie, parlare con tranquillità. Volevo dirle, io faccio il medico, ho fatto il medico ospedaliero per 40 anni, quindi essendo sottoposto a turni trovo veramente intollerabile una polemica sull'orario, il giorno festivo, il giorno di Natale, addirittura il sacerdote, ma si rovinano le famiglie. La mia famiglia non è stata mai rovinata, ho lavorato a Pasqua, a Natale, Santo Stefano, eccetera, eccetera. Innanzitutto come milioni aperto, di italiani, poliziotti, vigili urbani, vigili del fuoco, perfetto. Sì, certo. Allora, se poi la mettiamo ristoratori, camerieri, mentale, mi perdoni, per cui si rovina la famiglia o quella là, non per piacere, un poco di realismo. Poi a parte qualsiasi altra cosa, se l'esercizio commerciale è aperto il giorno di Natale, non è detto che tutti i dipendenti saranno al lavoro il giorno di Natale per tutti i Natali della loro vita. Qualcuno che sta dentro a Natale, qualcuno a Capodanno e così via. Se molti hanno ricorso, evidentemente sono in tanti. Però volevo rispondere solo una cosa, Michele. In realtà io credo che mettere a paragone il servizio e l'utilità, l'essere primario, il servizio di un medico rispetto a quello che può essere l'utilità di un negozio in un giorno festivo riconosciuto come tale, secondo me non è la stessa cosa. Va non bene, è la comunque stessa cosa, però questa è un'opinione sua rispettabilissima. Certo. Ma per tante persone può essere essenziale poter andare al centro commerciale anche a perdere soltanto del tempo. Immagini un anziano solo o una persona depressa, lei fa Natale con tutti i suoi familiari, ma ci sono tanti anziani che magari trovano il centro commerciale come uno sfogo. Va bene, grazie Michele. Allora, dobbiamo cambiare tema. Abbiamo 4 minuti e ringraziamo i nostri ospiti che ci parleranno ora di questa storia che abbiamo anche visto oggi sui giornali. Sì, se ne è parlato molto oggi. È titolata così: risarcimento al figlio 45enne rifiutato. La storia ce la racconta Vincenzo Trani, che è con noi. Buongiorno, signor Vincenzo. Buongiorno a tutti. Insieme al suo grazie. Avvocato Luciano Vinci, che l'ha aiutato in questa causa. Avvocato Vinci, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra attenzione. Allora, è una causa, la prima promossa da un adulto che avrà 20.000 euro di risarcimento perché il padre... Perché, Vincenzo? Danno esistenziale è la danno motivazione. Danno esistenziale. Perché suo padre che cosa ha fatto per essere condannato a questo? Non ha fatto il padre, semplice. Non ha fatto il padre. È una storia come tutte, no? Come tutte, non proprio. Però un figlio cresciuto senza padre sicuramente... ha lasciato in me un qualcosa che fortunatamente oggi ho una figlia e darò a mia figlio, a mia figlia tutto quello che io non ho avuto la fortuna di avere, insomma. Perché questa, so è la cosa, questa è forse significa. La cosa, questa è la cosa forse più bella che lei ha imparato. E infatti da mi ha insegnato tanto questo incidente di percorso, no? Però Vincenzo... penso a chi non ha avuto né padre né madre, quindi sono magari un più fortunato di tutti questi certo. ragazzi e figli, insomma. Però, ma lei comunque... non ha avuto nessun rapporto con suo padre durante tutta la sua vita? Un rapporto, forse è meglio non avere proprio un rapporto che averlo avuto in questa maniera, sinceramente. Come un fattore finto, tutto finto, c'è una cosa che mi dava agonia in tutti questi anni, però poi... Ma perché, perché è arrivato a denunciarlo? In genere ci si denuncia magari tra coniugi o tra padre e madre. Perché l'unico mezzo per far sentire la mia presenza era questo, sinceramente, quindi non potevo fare altro, perché non potendo avvicinare mio padre, non potendo ottenere quello che mi era di diritto, è chiaro che ho dovuto appunto perseguitare la strada del tribunale, che il mio avvocato... Ma questo... sta benissimo, insomma. Volevo chiedere infatti all'avvocato e poi anche a lei, per provarlo questo danno esistenziale in una causa di questo genere, che cosa è necessario portare? Quali prove è necessario portare? Avvocato. Guardi, noi abbiamo depositato una perizia psicologica, certo, a firma di immaginavo. Uno psicologo da cui appunto il Trani era stato seguito, però c'è anche un altro principio importante che la sentenza esprime, quello per cui in ragione di una lesione così grave il danno è in re ipsa, ossia non ha bisogno di prove, certo. È strettamente connesso alla gravità della lesione. Cioè, però ripetiamo, è la prima volta, avvocato, che viene condannato un padre a pagare in questo caso 20.000 euro perché non ha fatto il padre per danno esistenziale. No, ci sono stati altri pochissimi precedenti, ma in realtà nella maggior parte dei casi si trattava di un'azione intrapresa dall'altro genitore, esatto. Mentre il figlio è la prima volta che il figlio viene invece ferito da un adulto, tra l'altro di 40 anni. Cioè il reato tra virgolette è privazione della figura paterna, questo è non è un reato, perché lì sconfineremmo nel penale, qui non c'è stato alcun reato penale, civile. È stato un illecito civile, un illecito endofamiliare. Ma il problema non è legato al mancato riconoscimento in termini di cognome o di... Dicevo, il danno non è dettato tanto dal mancato riconoscimento in termini di cognome o di alimenti versati, ma è proprio in termini esistenziali, ovvero il danno subito dalla persona, affettivi, sì. Esatto, per essere stato privato il Trani di quei contenuti che normalmente caratterizzano la relazione genitore-figlio. Per aver omesso il padre... l'adempimento dei doveri genitoriali di educazione, istruzione, mantenimento e soprattutto assistenza morale. Beh, una sentenza veramente guardate, oggi per esempio ho davanti il giornale, non so se lo sapete, dedica una pagina a questo, c'è anche un commento di Giordano Bruno Guerri che dice ora almeno come supplemento di pena, tra virgolette, faccia almeno il nonno, ma non credo, signor Trani, visto che ha una figlia, che lei avrà piacere di questo. Ma nonostante tutto io non ho niente di tutto estremamente negativo nei confronti di mio padre, perché è sempre mio sangue e per me è stata una decisione non facile da prendere, quindi sostanzialmente sono una persona con dei principi sani, grazie a mia madre, e che mi ha sicuramente educato con garbo e attenzione peculiare, educazione di tempi di una volta, di gente di una volta, donne di una volta, che oggi purtroppo siamo in via di estinzione, la nuova società è... Vabbè, questo è un altro discorso. Sì. Io le volevo chiedere un'ultima cosa. Suo padre come ha reagito? Ha tentato di parlarle? Ha tentato una mediazione? Ha detto no, ma no? No, io non parlo con mio padre da 4 anni. Nel momento in cui ho visto mio padre, mi sono incrociato con mio padre solo in tribunale. Certo. Per strada ha cercato sempre di evitarmi, no, di evitarmi. Lui da una parte con la testa da una parte, io lo guardavo perché mio padre, io amo mio padre, è bello, è fantastico mio padre, guarda, non vedo l'ora di abbracciarlo, guarda, per riacquistare la... Ma sto scherzando, certo, figurati, è un sogno, è sempre stato il mio sogno, è ancora lui, però oggi... Non, sicuramente non ci sono, non c'è l'amore come c'era una volta. Insomma, noi... io riconosco mio padre, chiaro, perché è mio padre e lo rispetto da tale. Quindi, e spero un giorno che mia figlia avrà un rapporto con il nonno, quindi migliore come l'ho avuto io. No, vabbè, non chiudo le porte a nessuno, quindi assolutamente. Però questo siccome conosco lui, per perché è tutto di un pezzo. Si chiama Giovanni, io lo chiamo Don Giovanni, quindi questo tipico del sud. Vi ringraziamo molto, Vincenzo Trani e l'avvocato Luciano Vinci, e andiamo al traffico. I funamboli. Allora, siamo di corsissima, devo dire 3 cose veloce. I vincitori di ieri, i biglietti, Gianluigi e Carlo verranno in 4, nel senso che ognuno in 2. Ci siamo capiti, 2x2 è 4. Al Teatro Manzoni, domenica, Platone alle 20.45. Leonardo Manera, eccoci qua. Allora, dobbiamo dare la notizia sulla quale giocare oggi. Qual è? È questa: l'uomo raffreddato soffre di più. Cioè, basta donne darci dei lamentoni. Non siamo lamentoni, soffriamo di più, lo dice il giornale. L'ha detto una ricerca scientifica riportata dal giornale, dal British Medical Journal, dall'America. Gramellini sarebbe oggi ne parla in prima pagina. Soffrite di più, non ho ancora abbiamo il testosterone Gramellini. E quindi il raffreddore viene agli uomini più che alle donne. Viene più agli uomini che alle donne, quindi si soffre di più. Non è che ci lamentiamo di più, è che proprio ci ammaliamo di più. Soffriamo di più, siamo più cagionevoli di salute. Il testosterone ci fa stare peggio. Ragazzi, mi sento male. Adesso vi hanno anche dato l'alibi, è finita. Dovete donne, mandare. Donne, uniamoci, stringiamoci forte. Tutte le signore con l'aspirapolvere, teniamoci strette. Già prima no, ecco, ci con l'aspirapolvere, passatelo bene, che sennò gli acari ci fanno venire il raffreddore. Pure passatelo bene. Senti, comincia a prenderlo l'aspirapolvere. Adesso dopo ti aspetta a casa che viene a dare una pulita. Col mattarello. Dovete mandare un titolo su questa notizia. Dove? Al 349-238-6666. Diteci vostro nome e da dove, la città da dove ci mandate un titolo su questo. Gli uomini si ammalano di più delle donne, forza. Adesso dai. Voglio vedere io. Avanti, Leo. Non mi sento bene, Ale. Già. Ti senti male, Leo? Vuoi che ti vada a prendere qualcosa? Mi sento qualcosa? Un dolorino tutto nel petto. va bene. Anch'io oggi voglio esprimermi sul vostro tema d'inizio. Cioè, gli esercizi commerciali aperti o no i giorni festivi? Io penso di sì. Io penso che sia giusto tenere aperti i centri commerciali nei giorni festivi di domenica e anche il giorno di Natale. Non per il profitto, ma per salvaguardare le famiglie. Per fare in modo che marito e moglie, magari anche coi figli, facciano qualcosa insieme di domenica, che altrimenti non farebbero. Le famiglie non fanno più niente insieme. A messa di domenica tutta la famiglia praticamente non ci va più. Anche perché quasi tutti ormai sanno come va a finire, non c'è più l'effetto sorpresa. Il pranzo tutti insieme coi parenti è faticoso, ci sono troppi piatti da lavare, poi si litiga, piuttosto che mangiare coi parenti domenica, meglio digiunare. Anche perché c'è sempre una nonna che prepara qualcosa di pesante, che per la nipote a dieta non va bene, dalla caponata di melanzane a salire. Poi la nonna si offende, si brucia l'eredità in gratta e vinci, quindi meglio evitare i pranzi in famiglia. In centro a passeggiare di domenica, se fosse tutto chiuso, è una noia. Nei musei vanno solo gli appassionati d'arte e comunque i figli si annoiano. Una volta si andava a prendere il gelato, ma adesso si tende a limitare i gelati e i dolci per non ingrassare. Poi prendere un gelato è molto costoso, non solo per il gelato in sé, ma se hai un bimbo piccolo per gli effetti collaterali del cono gelato. Il bimbo a un certo punto si sporca la maglia col gelato, la maglia va messa a lavare, poi si sporca le mani di gelato, entrando in casa con la mano sporca di gelato sporca anche tutto il muro che poi va intonacato. Quindi se un bimbo mangia 2 palle di gelato quasi sempre poi bisogna chiamare l'imbianchino che costa. Poi mettici anche che l'imbianchino ci prova con tua moglie che magari ci sta, il matrimonio si sfalda. Parti da 2 palle di gelato e finisci col pagare gli alimenti alla moglie. Perciò è sconsigliabile andare di domenica coi bimbi a prendere il gelato. I gelati vanno proibiti ai minori di 14 anni per i danni che creano. Se non ci fossero i centri commerciali aperti domenica, le famiglie si sfalderebbero molto prima, non saprebbero dove andare, non saprebbero cosa fare. Farebbero qualche tentativo, poi ognuno andrebbe per la sua strada. Il marito a guardare YouPorn, la moglie qualche sito di scarpe, il figlio a farsi le canne nella sua cameretta. Ci si ritroverebbe di domenica sera a cena senza aver condiviso niente per tutto il pomeriggio, in silenzio, amareggiati. Invece il centro commerciale domenica pomeriggio è bellissimo, sei rassicurato da tutta quella gente che è intorno, sai che stai facendo qualcosa che piace anche agli altri, il marito può ammiccare le hostess che fanno le promozioni, la moglie può soffermarsi nei negozi che precedono l'ipermercato, i figli giocano con le PlayStation dimostrative e in più sai che stai facendo anche crescere il PIL, perciò in quel momento sei anche un cittadino che compie completamente il suo ruolo sociale. E alla fine, se fai un po' di spesa, il maschio ritrova anche il suo ruolo di maschio, appunto, portando le 6 bottiglie d'acqua imballate, 6 per mano, camminando in modo un po' scimmiesco, ma dimostrando di avere ancora un ruolo nella famiglia, il portatore d'acqua. Vi prego, se non volete che separazioni e divorzi aumentino in modo esponenziale, tenete aperti di domenica e a Natale ogni centro commerciale. Eccolo qua. No, dobbiamo ridirlo bene perché la gente non ha capito. Allora, se volete vincere anche oggi, 4 biglietti per Platone. Vedi, andare di corsa, la gatta frettolosa, certo. Fa i gattini ciechi. Se volete vincere 4 biglietti per Platone, oggi diamo a 2 vincitori, dovete mandarci un titolo, come se fosse un titolo di giornale, su questa notizia. Gli uomini si ammalano di più delle donne. E dove ce lo mandate, Veronica, questo titolo? Al 349-238-6666. Oh. Soffrono di più delle donne, nel senso che hanno dei raffreddori più forti e quindi sono più sofferenti mentre li hanno. Così sì. Non è, beh sì, beh, sono più sofferenti, ma ha ragione. Alla fine, in sostanza, ci ammaliamo di più per il testosterone. Via, esatto. Colpa del testosterone. Adesso non è una prova di virilità il fatto che vi prendete il raffreddore. Anzi, più l'uomo soffre, perché? Più vuol dire che è maschio. Ma lo dice la scienza. Tutti i giorni fai, mamma mia, come sono raffreddato. Mamma mia. Prima si diceva, guarda qui che cosa c'ho. Guarda, adesso si dice, guarda, senti come sono maggiore. Un grande bacio, molto bene. Sono raffreddatissimo, io, hai capito? Va bene, quindi mi raccomando, per i biglietti, mandateci il titolo al 349-238-6666. D'altronde si sa, noi prendiamo più raffreddore delle donne. Molto bene, care amiche, vi aspetto qui tutte da bene. Finisce la prima ora dei funamboli. Mi toccherà sopprimervi, purtroppo. No, finisce la prima ora dei funamboli. Ah, domenica ci sarà anche Giuseppe Cruciani. Giuseppe Cruciani raffreddatissimo. Sarà raffreddatissimo, stavo per dirlo. Secondo me c'ha già un raffreddore. Mamma mia, che raffreddore! Cruciani, ecco perché Cruciani c'ha il raffreddore sempre. Fisso, sempre, c'è un raffreddore perenne. Fisso, va bene. Scriveteci anche il messaggio da dove ci scrivete. C'è Rocco Siffredi, c'è il raffreddore. Scriveteci anche la città da cui mandate il titolo, va bene? Giornale radio, tra poco. I funamboli. Buongiorno, Ugo da Roma. Ho lavorato 26 anni all'Alitalia in aeroporto, ho fatto Natale, Capodanno, 10.000 volte ho lavorato nei festivi. Io personalmente nei festivi non lavoro volentieri, ma devo dire che tanta gente che conosco, se non ci fossero i festivi, proprio non lavorerebbe. Scusate, gli infermieri quindi hanno tutti famiglie rovinate? Come si organizzano? Si sparano gli infermieri, no? Vabbè, devo dire, non lievemente c'è una faziosa, Lorenzo Nespoli, la selezione di questi messaggi vocali. Lievemente no. Faziosa, e poi sarei ma io no, quella di parte. Non è no. Faziosa, niente. Accuse in redazione, sono le i messaggi che arrivano. Sto accusando Nespoli. Sono messaggi che arrivano. Ma devo dire, sì, non c'è una grande varietà di, l'abbiamo detto, gli infermieri, eccetera, i medici, tutti quelli che fanno lavori fondamentali per, insomma, per mantenere un, servizio pubblico, ecco. È un po' diverso, no? È diverso, va bene, ho capito. Ma noi siamo infatti, l'abbiamo detto, no? Non abbiamo introdotto il fatto che chi lavora la domenica o anche a Natale non magari è esattamente è la cosa. Poi c'è chi sostiene che soldi. Appunto Natale è una festività chiaramente per noi religiosa rispetto alla nostra religione. Guarda, per molte Peter altre Bescapè. Religioni no. Oh, ma adesso ce lo dici, Peter Bescapè lavora a Natale, signori. Non ci posso credere, ecco. In un centro commerciale, tra l'altro, no. Va a fare il commesso da intimissimi, Peter Bescapè. Qui parte la standing ovation. Cosa farà? I nostri bei manzi in redazione, Peter Bescapè e Lorenzo Nespoli, andranno a fare, non so, i manichini. Da intimissimi, sì. Da intimissimi, sì, sì. Allora è autorizzato a parlare. Io farei domani una puntata tutta con Peter Bescapè che ci dice la sua. Allora, dai. Ci sono gli ascoltatori, c'è Umberto da Bari. Buongiorno, Umberto. Sì, buongiorno. Eccoci. Io non volevo entrare nella polemica sul diritto di lavorare, ma un po' sulla questione ambientale, perché giorni fa ho visto uno spot di un noto professore che parlava dell'inquinamento dovuto ai negozi che tengono la porta aperta perché esce il calore. Dico, a maggior ragione dovremmo ripensare anche un po' la chiusura delle attività commerciali per la questione di impatto ambientale, perché non dico di tornare all'austerità, ma avere sempre i negozi aperti 24 su 24. No, si sente veramente tutto. Ma perché non facciamo come in Corea del Nord? Lì non hanno problemi di grandi luminarie, per esempio. Allora io devo dire benissimo che in Corea del Nord. Di massima... È una provocazione, ovvio. Ma perché dobbiamo limitare la libertà, l'austerità? Però io in linea di massima sono favorevole all'apertura dei centri commerciali, però devo anche inquinano. Dire... I centri commerciali inquinano. Devo anche dire che nel 73, quando ci fu la crisi petrolifera, io con mio padre feci cose stavi che ricordo bene, ancora. Stavo bene. Perché ho fatto delle cose che ancora mi ricordo in stanza di anni proprio perché bisogna... certo, ma guarda che se spegniamo i cellulari, chiudiamo tutto, le TV, non inquiniamo, ci abbracciamo tutti, ci raccontiamo delle cose... è bello, io mi rompo i maroni dopo mezz'ora. Io mi rompo un po' i coglioni dopo un giorno. Amici miei esterofili, sempre e comunque, voglio anche dirvi che l'Italia è l'unico paese a non avere nessun vincolo, nessuna restrizione in questo senso. Beh, no? Io non lo so, nessun paese. Dopo il Salva Italia di Monti nel 2012, per noi è diventato nessuno, così. Nessuno al ma mondo. Ma negli altri paesi, beh, senz'altro. Sei sicura di queste cose? Negli altri paesi del mondo, io ti dico in Europa, senz'altro in Germania, Francia, Spagna, ci sono dei vincoli. Non c'è proprio questa possibilità di agire come si vuole, per cui siamo l'unico paese, è un'anomalia. Dunque non è così strano che se ne dibatta e che molti siano perplessi. Certo che sì, non è strano dibattere, perché ne dibattiamo da giorni e anche oggi ne dibattiamo a lungo. Ma in teoria in un mondo di libero mercato ognuno dovrebbe contrattare come preferisce, no? Anche l'apertura, anche i dipendenti. Poi magari io la penso così. Adesso si è scoperto che i negozi aperti di poter contrattare. Sì, ma certo, ma cioè, dopodiché si è scoperto che i negozi con le porte aperte inquinano e quindi dobbiamo chiuderli. Estremizzo il discorso di Umberto da Bari, no? Dice i centri commerciali chiudiamoli per risparmiare l'austerità, fanno producono. Sei sarcastico. Troppo. Ma no, l'ha detto Umberto da Bari. Sì. Sei sarcastico con Umberto da Bari? Beh sì, un po' sì, mi ha suscitato un po' di sarcasmo. C'è Gianni da Ferrara, grazie comunque Umberto, un abbraccione ovviamente. Gianni da Ferrara, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Eccoci. Io sono un ristoratore e come tanti colleghi come me in questo settore, con tanti collaboratori, di conseguenza siamo a sindacare i dipendenti, diciamo, dei supermercati, ma quanti personaggi lavorano nella ristorazione e le domeniche, le festività sono tutte le loro. No, non l'ho mai capito. No, nemmeno dice io, dice che ci sono capito. Tante persone che lavorano nella ristorazione e nessuno fa polemica su questo. No, infatti secondo me i ristoratori, pensavo proprio questo prima, sono anzi, una Natale delle categorie che molto. Ha ragione di fare questo paragone rispetto ai centri commerciali. Perché però, il ristoratore è molto Gianni, molto più che non il medico. Gianni, se lei è titolare, immagino, essendo ristoratore, guadagnerà bene a Natale, no? Anzi. Ah, sono le festività che ti portano un po' sull'incasso, E se portano sull'incasso, lei potrà assumere una persona in più, magari. Se no, chiudiamo e i camerieri che magari si lamentano a Natale, dice: guardate, allora sapete che c'è? Il ristorante va male. saluti e grazie. Andate a trovare un lavoro alle post. Bravissimo, il ricatto funziona esattamente così. L'hai fatto ricatto. Preciso, l'hai incarnato. Ma non è ricatto, ma scusa, se un ristoratore va male, perché l'azienda può andare male purtroppo, deve chiudere e non c'è più lavoro per nessuno, per il ristoratore, la sua famiglia e i dipendenti. Io vorrei che tu, che però se in va bene, causa in maniera assume. Così convinta, domani mi portassi dei dati di quanto sono i miglioramenti reali delle entrate di coloro che tengono aperti nei giorni festivi, per esempio nel giorno di Natale. Ma Gianni, vuol dire lei da ristoratore? Cioè, nel senso, non penso che inventi a dire che durante... Scusi, intervenga lei Gianni a sedare durante, la polemica. Durante le festività, lei Gianni guadagna ben di più rispetto che il mese di settembre? Allora, sicuramente ho alcuni dipendenti in più per le festività, perciò diciamo che si crea qualche posto quindi di dà anche lavoro, bene. Gianni, visto che guadagna bene, può mandarci qualche cosina anche qui? Una mortadella, non so. Scherziamo, Gianni. È questo il momento, però, che ti serve, che devi intervenire, ragazzi, scusami, a dire: Gianni, dacci una coppa a Piacentina, no, di Ferrara, un'altra zona. Pareva brutto, nel frattempo era arrivato un messaggio con scritto: che ti serve, Veronica, una lezione di tennis? Però il problema è che scrive Hong Kong. Comunque la sostanza. Certo, il nostro maestro di tennis mitico che ci segue da anni da Hong Kong, lo saluto, è un grandissimo, grande abbraccio. Scusami, allora facciamo che lui mi fa lezioni di tennis a Hong Kong e tu mi paghi il viaggio? Va bene, ma Nera ha detto che voleva pagarti un viaggio per Hong Kong. Era lui. La sostanza è che si può tenere aperto tutto tranne i centri commerciali, mi sembra di aver capito così. Sì, esatto, adesso c'è una crociata contro i centri commerciali. Viva i centri commerciali! Così, non lo volevo dire così, ma non era. Che fatica. Oltretutto, qui non vogliamo politicizzare la questione, Dio ce ne scampi e liberi, però se uno guardasse la proposta di Di Maio, no, che si è ironizzato, è una proposta non così integralista. Cioè, si dice, su 12 giorni festivi all'anno, 6 devono essere di chiusura per i negozi. Questi giorni devono essere contrattati fra associazioni di categoria e i comuni, ma garantiscono che il 25% degli esercizi commerciali a rotazione deve restare aperto. Io però, quando qui lo dice... poco la politica, no, e tu no, sai che ha poco so. A che fare Di Maio con ma me. Ma quando o lo dice un politico io guardo sempre con sospetto, e chiaramente Di Maio ha voluto strizzare l'occhio all'elettorato cattolico. Di solito le regole vengono fatte dai politici, poi ogni tanto mentre loro strizzano l'occhio guardiamo anche se ci sono delle proposte di buon senso. Ma lui ha strizzato l'occhio all'elettorato cattolico. Questo è il motivo, secondo me, per cui l'ha fatto. Ma a me non interessa perché Di Maio l'abbia fatto né quanti voti prenderà per questo. Ma discutere di una proposta di questo genere. Ma ne stiamo discutendo da giorni. Stiamo discutendo. Le discuteremo anche dopo Natale. Dopo Natale. Da me. Dopo il traffico, abbiamo un nuovo funambolo. I funamboli. No, gli uomini non si ammalano più delle donne, gli uomini hanno un raffreddore e sono già morti. Dopo questa notizia ho capito chi è il maschio in casa mia moglie, perché lo prende molto più di me il raffreddore. Ecco, abbiamo lanciato adesso un'altra bella diatriba. Però lo dice la scienza, non è che lo diciamo noi, la ricerca scientifica. No, ma è interessante. Quindi effettivamente quando una donna in casa si ammala più di un uomo vuol dire che è lei che porta i pantaloni. Allora questa tornerà a mio favore. Ci terrei a fare una precisazione nell'introdurre il prossimo funambolo, che è un sindaco. Siamo in provincia di Siracusa, nella straordinaria Noto. Qual è la precisazione? E la precisazione è questa, è doverosa. Questo argomento ci teneva tantissimo a farlo in redazione, le nostra Elisabetta Fusconi. Sì, è importante anche secondo me dirlo. Tutti i dettagli. Sono giorni che briga per questa cosa ed è riuscito finalmente a realizzare incuriosito molto. Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno la nostra Elisabetta Fusconi, che lei non sente, ma insomma è dietro il vetro, nella nostra redazione, vuole sapere tutto del perché si sposano a Noto, si sposeranno. Chiara Ferragni e Fedez. Quindi sostanzialmente, Fedez, sindaco, lei può fare un monologo, noi non dobbiamo fare altre domande, basta che lei dà più dettagli possibile. Allora partiamo dalla precisazione, sì, che essendo i sindaci per definizione politici, sì, ed essendo io un sindaco, almeno mi reputo credibile, devo assolutamente dire che il nostro ufficio dello Stato civile non ha ancora ricevuto richiesta. Però il giornale di Sicilia dice così, ha dato questa indiscrezione. Questo è un aspetto proprio per dire che i politici diciamo anche le verità, ecco, e che non possiamo... Quindi prima notizia per Elisabetta Fusconi, non c'è ancora la richiesta ufficiale, lo dice il sindaco. Passiamo all'aspetto romantico invece della, sì, della questione, che mi sembra l'aspetto più bello. Dopo aver spinto un po', no, aver accelerato i tempi della Ferragni e di Fedez a fare la richiesta ufficiale, sì. No, vabbè, al di là di questo, per noi non è un problema, la possiamo lavorare anche all'ultimo secondo. No, invece mi fa molto piacere il fatto innanzitutto di averla avuta ospite, diciamo, della città per almeno 2 o 3 volte negli ultimi tempi a Chiara Ferragni, per cui le fotografie postate dalla nostra cattedrale, seduta sulle scalinate, insomma... è sempre per una fashion blogger conosciutissima. Cioè, c'è qualcuno che si vuole comprare la cattedrale? Perché quello che fa Chiara Ferragni è impossibile. È ovvio che la possibilità di convolare a nozze qua a Noto dà il senso di un'atmosfera, di una sensazione magari che avrà provato, che avrà vissuto nel vivere giornate nella nostra città e nel nostro territorio. Sì. E questo è l'aspetto più bello, più romantico, perché Noto ancora oggi rappresenta secondo me una città d'arte all'interno della quale si possono vivere tante emozioni. Vabbè, quindi hanno indicato anche Palazzo Ducezio come il posto in cui vorrebbero sposarsi. Niente. No. I matrimoni civili è sicuramente una realtà affascinante, così come il museo a cielo aperto che la città rappresenta, per cui questa è una cosa molto molto molto importante. Che dobbiamo fare per fare questa inchiesta? Non lo so. Avrà un turismo che deriva da questo matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Certo, lei segue Chiara Ferragni, come i suoi consigli per i capelli eccetera? Cioè, la segue su Instagram, segue le storie. Devo dire una grande verità, che non sa chi sia. Non so chi sei. No. Per carità, non lo sapevo. Allora, fino all'altro ieri, ma adesso sa tutto. No, non sapevo chi era, ma da qualche mese a questa parte, non dico ieri che è uscita la notizia del matrimonio, ma da qualche mese a questa parte, avendola letta e pubblicare delle cose sul Noto, mi sono incuriosito e ovviamente quando ne ho parlato che sposta figlia, migliaia e migliaia di persone, mi ha detto come non conosci mia figlia, che fece come non conosci, ma veramente allora, sua figlia subito l'ha sgridata. Quanti anni ha sua figlia? Sì, a 20 anni. Per cui mi ha sgridato, ma ho approfondito e penso che sia assolutamente una persona interessantissima, sicuramente di grande intelligenza, perché ha saputo costruire fondamenta solide legate alla propria immagine. Senti il sindaco come sta cercando di convincere Chiara Ferragni a venire a Noto, per cui ne sono molto contento assolutamente. Beh, però allora sindaco, di Noto ad un'intelligenza particolare quale è quella di Chiara Ferragni è una cosa che mi caspita fa piacere. Lanciamo in un panegirico proprio allora, sindaco, per concludere faccia un appello a Fedez e Chiara Ferragni. Venite a firmare, no, cosa devono fare formalmente? Appello a Chiara Ferragni e a Fedez, attenzione. Ovviamente gli aspetti legati al perfezionamento della pratica amministrativa è molto legata al rapporto e relazione tra i comuni residenza degli stessi e il comune di Noto, e questo lo metto da parte perché gli uffici dello Stato civile, della loro, ma loro che devono fare? A loro, esatto, che è l'aspetto più importante. Io dico che sposarsi a Noto sicuramente gli potrà dare in futuro quella grande forza di vivere una continua emozione che è legata dalla splendida realtà che questa città offre, e sicuramente dalla volontà di poter mettere anche radici in questo territorio. Ah, stupendo! Un figlio noto! Faccia nascere il figlio di Fedez e Chiara, certo, a noto! Magari incinta potrebbe partorire a noto! Magari partorirà a noto, maestro! Partorirà a noto, per cui ovviamente avere un figlio nato in Sicilia è già qualcosa di grandissima importanza, visto il ruolo strategico che la Sicilia riveste nel bacino del Mediterraneo. Sindaco, ma lei è straordinario. Che si separeranno anche loro. No, non si separeranno mai. Se convoleranno nozze a noto. Più di tanto nel momento in cui si sono sposati è andata. Sindaco, noi la ringraziamo. Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, per favore tagliamo bene e pulito questo appello, perché glielo mandiamo a Fedez e a Chiara Ferragni. Complimenti a noi per questo momento di altissima informazione che abbiamo contribuito a fare qui su Radio 24. Ma che scherzi! Ma è stato un momento importante, alto di inchiesta. È stato un momento noto, sarà noto. Allora, c'è Anna che ci chiama da Rimini. Buongiorno Anna. Buongiorno a voi. Dai. Volevo intervenire sulla chiusura dei negozi la domenica. Sì. Io ho mio figlio e mia nuora tedesca. Il mio figlio abita in Germania. Nella civilissima Germania di domenica sono chiusi persino i bar. È vero. Non è morto nessuno, nessuno è fallito, le famiglie sono più unite perché la domenica prendono su coi figli, vanno ai laghi, vanno in giro e finalmente, visto che noi coi figli non ci siamo mai, perché uno arriva a casa a mezzogiorno, l'altro arriva a casa alle 2, l'altro arriva a casa alle 3, l'altro non viene a casa per niente e coi figli non si parla più. Perché una volta si parlava a tavola con i figli quando c'erano gli orari normali. Spero che questo non sia dovuto al fatto che sono i bar aperti. Sarà un altro. Saranno problematiche un po' più importanti. Sì, senz'altro. Cioè, credo ragione. Che la famiglia tedesca non sia salvata dalla chiusura dei bar domenicali, magari da altre cose. Però so. La testimonianza che nel resto d'Europa, in paesi molto evoluti, quindi chi dice per essere un paese emancipato, all'avanguardia, bisogna essere aperti la domenica e i festivi, mi sembra che gli altri paesi d'Europa che tanto guardiamo come dei modelli straordinari quando vogliamo. Va bene, però cioè, è questo. In America invece è tutto aperto e non mi sembra che sia un paese incivile. Devo anche dire che ogni non è che si può guardare anche un particolare di un paese. Basta andare a Lugano di sabato alle 6 di pomeriggio. A Lugano è tutto chiuso, viene un po' anche di amarezza. Sì, ma la civiltà di Lugano, secondo me, non è tanto da quello, ma del fatto che se metti la macchina in parcheggio storto di un millimetro ti arriva una multa salassata subito. Per me la civiltà è più quello che cioè non è tutto chiuso. Oppure a Lugano nessuno butta una carta per terra. A Lugano non c'è niente sabato pomeriggio. Ti prende l'amarezza a Lugano. Comunque c'è cioè, grazie signora, ovviamente c'è guarda quanti chiamano. Salvatore da Lecce, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. I funamboli per tutta la vita però con voi tre. Complimenti. Ma dove? Grazie, dove? Questo è il problema. Su tutte le radio, in mancanza di tutto il mondo. Tutto il mondo. Va bene. Quando andremo alla BBC. Ma faremo anche concorrenza a loro, non è un problema. Vai Salvatore. Cioè, allora, noi siamo una categoria, sono la categoria degli autisti. E noi purtroppo stiamo fuori senza la famiglia tutti i giorni. Anche i giorni di festa, anche le domeniche. Quindi ce ne facciamo una ragione, purtroppo il nostro mestiere, ognuno fa il suo mestiere, bisogna accettarlo così com'è. Quindi che loro si lamentano, purtroppo non è colpa di nessuno. Certo. Anche noi gli altri hanno i lavori un po' complicati. Chiaro, no, è chiaro. Sì, ma insomma sono tante le categorie, potremmo fare. Infatti, mi hanno detto la polemica viene solo creata per i centri commerciali, principalmente, perché è una cosa puramente di consumo che cozza un po' con la cultura italiana, anche cattolica, insomma, ma alla fine. Anche perché probabilmente non era considerata una cosa connaturata al lavoro stesso di vendere qualcosa il fatto di doverlo fare nelle festività, mentre un autista, o appunto abbiamo detto lavori più estremi, il medico, l'infermiere, a suo modo anche il ristoratore, era maggiormente previsto il fatto che dovesse essere aperto un negozio di vestiti la domenica o il giorno di Natale, non si pensava. C'è Remo da Bologna, buongiorno. Buongiorno cari, come state? Tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto. Che belli che siete, meno male che esistete voi. Oh. Siete gentili stamattina. No, io questa voce la conosco. Sì. Io questa voce la conosco. L'hai già sentita? Ma questa, ma è il nostro Remo, ma il nostro Remo. Bologna, ma allora? Certo, ma sì, da Bologna, cioè, da Bologna in Italia adesso il nostro Remo. Remo, sì, Remo no, grande Remo, ma sei tornato, cuoco quindi, dalle Seychelles ora no, a Bologna in Italia. Finita. È lui. Finita, quindi io ho perso la mia occasione definitivamente, Remo? Beh, soltanto con tutte le volte che ti ho invitato, non sei mai. Non me lo dire, ti prego. Non me lo dire. Quindi non ha mai accettato un invito, è anche un brutto carattere. Alle Seychelles, ti rendi conto? No, non me lo dite, vi prego. Anche questa è la mortificazione di avere Roma che te serve. Sì, tu parti, vai alle Seychelles, però Remo sta a Bologna adesso. Remo, grandissimo, cosa ci vuoi dire? Sì, va tutto bene, nel senso che io sentendo questo discorso mi meraviglio molto. Cioè, se esistono dei locali aperti e dei ristoranti aperti, dei negozi aperti, perché la gente ci va? Quindi dov'è il problema? Nessuno dice a uno che devi fare il cameriere, il cuoco, il barista, il dipendente di un supermercato, eccetera. Fai altro. E c'è domanda offerta. Fai conto che Remo fa questo da quando ha 16 anni, cioè lavora locale. Da 14 anni, 14, sì, da 33 14. Anni. Quindi ho sempre lavorato Natali, Pasqua, feste, sabato e domenica. I miei amici andavano a divertirsi, io andavo a lavorare. Ma è la mia scelta. Se volessi cambiare, cambio. Vabbè, adesso che l'ha detto Remo mi sono convinta. Veronica, sei furba. Si direbbe paracula in altri termini. Che mi facesse ragionare, adesso mi sono convinta. Cioè, voleva dire sei paracula, ma si vuole tenere ancora quello educato, spiralino aperto. Esatto. Ma lui ha più garbo di te. Grande Remo, cioè, grande Remo. Sempre rispetto alla grande Veronica. Remo, ti abbracciamo. Tutti, ti abbracciamo noi. Anche noi. Se vuoi portare tanto. Anche Leonardo Manera, lui. Ma guarda, io a Capodanno poi lavoro sempre, da quando avevo 14 anni anch'io, 17 anni. Però. Quindi, e se non lavoro mi amareggio, devo dire. A Capodanno. Addirittura. Quello perché, è vero, però è un'altra questione quella. Ragazzi, perché adesso avete perso il gusto di divertirvi a Capodanno, non sapete cosa fare. Ma io Natale lo trovo tristissimo proprio. No, adesso. Capodanno è ancora peggio. Quella è un'altra puntata, Remo, potremmo anche ospitarti. Quanto vi fanno tristezza le feste natalizie? E quella la apriamo, chiamiamo, forse la facciamo. Chiamiamo il professor Janssen, lo facciamo intervenire. Vi professore. Deprime il Natale? Capodanno fa stare male, Capodanno e Natale, giorni amari, tristi, non te fanno stare bene. Allora, tu va bene. Picchia vicino di casa per il giorno di Natale. Facciamo così, salutiamo Remo, un grande abbraccio ovviamente. Andiamo a sentire la borsa. Ciao, e poi avremo un'altra grande funambola, grande nostra amica che torna, Carla Rocchi, amica degli animali come tutti noi. Io non sono andata alle Seychelles. Lo so, ma questa è stata una scelta tua. Tra poco. Lo so, però. I funamboli. Funamboli, datemi un lavoro e vi prometto che lavoro tutti i Natali e tutti i Capodanni fino a che vita non ci separi. Senza qualche tipo di vincolo si arriverà poi dopo a lavorare 24/24, come piace dire adesso a tutti, 7 giorni su 7 a salari molto bassi. Quante palle, Milan, ho lavorato per 10 anni, sabato e domenica come extra, per comprarmi la casa. Allora, questi nostri ascoltatori... Come extra è diverso comunque. Come extra, sì. Sì, certo, ma sai, ma ognuno qua dice la sua, siamo un Portofranco... C'è anche chi ci scrive: la mattina ci sono 5 conduttori, 3 del nord e 2 romani. Indovinate chi è favorevole alla chiusura festiva? Provate a chiedere ai 2 conduttori che seguono. Questa è una lettura originale. Ma poi, interessante. Ma pochi luoghi asfatigati. Comuni. Ma non c'è va niente. Preferimo stare in poltrona, capito? La domenica siamo a casa. Va bene, va bene. Noi siamo del nord. Qui c'è niente da fare. No, quelli del meridione non voglio lavorare, non capisci? Bisogna dire chiaramente cose. Ah? Qua di Cavaillon Veronese c'è Battista anche da Cavaillon Veronese. L'ho sentito arrivare. Chissà se lavora Battista la domenica. Lavorerà? Battista, non credo che esistano domeniche. Ah, anche non c'è nel mio calendario domenica. No? Se va lunedì, venerdì, poi anche lunedì e martedì. Non esiste sabato e domenica, capisci, Mina? Capodanno? Ah, non esiste Capodanno. Natale? Neanche a Natale, tutta una questione dei meridionali che vuoi sempre fare ferie. Cioè, anche dei neri, magari. Ma i neri. No, Battista. Ve lo ricordate il sindaco di Punta Minchia? Mi è tornato alla mente. Secondo me lui la domenica non lo so mica se e perciò lavora. Venici a trovare il nostro bello paese Punta Minchia, che è rilassante perché non c'è una minchia. Ma la domenica che si fa, sindaco? Stesso gli altri giorni, non si fa una minchia. Allora, siamo contenti perché qui c'è un'amica, come siamo tutti noi amici degli animali, tutti noi, ribadisco, tutti noi, c'è Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale. Ente Nazionale Protezione Animali. Carla, stiamo in diretta. Dove Carla sta? Carla, no. Carla, ci senti? Non ci abbandonare. Benissimo, benissimo. Avete fatto un mail bombing. Sì, bombing. Bombing. No, di sti tempi. Tanto bombardare. No, di sti tempi no, non dirlo. Attenzione, già abbiamo fatto naturalmente. Già hai girato bomba oggi, è una puntata. Alla bomba oggi. Il mail bombing al ministero, vabbè, a te non è simpatico Galletti. Questo voglio dire, ci vuole una bella immaginazione a farselo. Se uno ama gli animali, francamente, deve fare un triplo salto mortale. Lui sta simpatico a tanti, sta simpatico ai cacciatori, ai bracconieri, a tutta quella bella gente là. Ha tanti sostenitori, non gli serviamo certo noi. Ma perché il mail bombing? Ma perché questo signore, da quando fa il ministro, che io ancora mi chiedo come sia stato mai possibile, non una volta, ministro dell'ambiente, non una volta ha incontrato le associazioni. Tutte le volte che c'è da sparare lui è in prima fila. Si appalesa un lupo, sparatelo. Si appalesa un orso, impallinatelo. Ma non è vero, dai, non dire così. No, per carità, si appalesa una nutria, schiantatela. Cioè proprio, e lui poi chiama questa cosa con eradicazione, eliminazione, tutti i termini, no? Sta tutto il giorno, secondo me, sul dizionario dei sinonimi. Per studiare, Non l'ho mai sentito dire sparate a un lupo, però. Cosa? Non l'ho mai sentito dire sparate a un lupo, sparate agli orsi. Devo dire che sul lupo di tutti gli animali, però il punto qual è? Che lui non è che dice sparate al lupo, sa che è molto impopolare, gli salta addosso Cappuccetto Rosso, lo morde alla gola, quindi è un uomo perduto. Però lui non fa mai nulla per la vera tutela di questi animali. Insomma, l'eliminazione dei lupi era stata proposta dal governo. Si è dovuto muovere il presidente della conferenza Stato-Regioni, Bonaccini, che noi tutti ringraziamo, che certamente non è un animalista, credo, però è un uomo delle istituzioni. Sa quello che e fa. Che fa lui per salvare i lupi rispetto a Galletti? Lui ha detto che non questa cosa del governo è molto semplice. Ha detto questa roba qua ve la incartate e ne riparliamo tra 2 anni se sarà ancora il caso. Cioè gli ha tolto il piatto da sotto al naso. Io ministro, mi vedessi sfilare in conferenza Stato-Regioni una mia proposta dall'autorevolissimo presidente della conferenza, ci penserei 2 volte, ma tanto a Galletti che gliene importa? Lui c'ha i cacciatori. Vabbè, tanto tra 3 mesi non sarà più ministro. Appunto, a suo parere il ministro ha questa avversione generalizzata verso gli animali, insomma. Ma io dico, come si fa? Dovendolo far ministro, che tanto una poltrona non si nega a nessuno, ma lo potevano far ministro delle pizze fichi? Gli mettevano in piedi un ministero. Cioè Carla, tu dici che proprio che non è una questione lobbistica proprio nello specifico, tu dici proprio che lui non sa bene cosa fa. Per me guarda, io dell'uomo mi disinteresso, delle sue capacità non ho modo di dire perché le vedo le sue capacità aggressive nei confronti dei temi che dovrebbero essere i suoi. Mi spiego meglio. Se uno fa il ministro dell'ambiente dovrebbe tutelare l'ambiente. Se proprio ha un'allergia chiede di stare in un altro dicastero. Non saprei quale, ma magari in un altro dicastero. Quanta tagliente durezza, insomma, vedo. Ma io questo qua lo dovrò incontrare una volta o l'altra per dirgli quello che penso. Ma se non ci sei riuscito in 3-4 anni, magari. Credo. No, ma io lo devo incontrare per strada perché lui guarda bene. Figuriamoci, ma gli appuntamenti gliel'abbiamo chiesti. Una volta l'ho incrociato davanti a Montecitorio, ho visto che ha cambiato strada. No, perché siccome io sono di dimensioni, come posso dire, sono molto alta, ci sto, insomma, capito? E l'ho visto un attimo di Perplesso. 200.000 mail sono già arrivati. 320.000 la settimana scorsa, adesso stiamo superando il mezzo milione. Non ha dato nessun segnale. No, secondo me è sepolto sotto tutta sta roba. D'altronde, diciamoci, che segnale vuol dare? Lui non può dare nessun segnale a noi, perché altrimenti il suo vero esercito, l'esercito, truppetta di sostenitori, lo molla. Quindi lui si tiene stretto i suoi supporter e noi ci ignora. Tanto tra Carla, tre mesi... ma quale sarebbe il tuo sogno di ministro dell'ambiente? Dici un nome. Sì, Rutelli è stato un eccellente ministro dell'ambiente. Fulco Pratesi, se ne avesse voglia. Grazia Francescato, se ne avesse voglia. E tanto per citare dei nomi storici. Ne hai una rosa. Vabbè, okay, ne ha citati. Noi, Carla, ti ringraziamo e teniamo conto di questa cosa. Domenica facciamo Platone al Manzoni e abbiamo Giuseppe Cruciani. Dobbiamo dirgli qualcosa? Che gli voglio bene. No, a parte questo, guardate, devo dire una cosa strana, perché nella vita le cose sono bizzarre. Ma lui magari porta un animale, no, non lo farà questo al Teatro Manzoni. No, ma voglio dire, io lo trovo estremamente spiritoso, molto divertente, molto intelligente. Questa cosa degli animali gli serve per intortare tutti quelli che ci cascano. Se nessuno gli avesse mai telefonato sugli animali, lui starebbe lì a fare pratiche onanistiche sul tema. E invece purtroppo... Su questo temo che Carla non abbia tutti i torti. Dici che lo utilizza un po' prodomo sua, diciamo. No, io dico questo, basta non rispondere. Ignoratelo. Mangio gli animali, mangio tutti gli scorti. Se nessuno lo chiama, si rimane lì. Situazione onanistica. Va bene, però gli vuoi bene, glielo diremo. Grazie Carla Rocchi. Dobbiamo andare. Sì, glielo diciamo. Dobbiamo andare a sentire il traffico. Ma i lupi lavorano la domenica? I lupi, sì, e gli agnelli che fanno fatica. Va bene, abbiamo detto. Dopo questa, dai, andiamo al traffico. C'è Manera che è perplesso, è amaro, si è amareggiato. Per riuscire a rendere perplesso Manera, immagina di cosa. Guarda che anche fatto. Tu, Leonardo, ogni tanto ne dici un paio. Ogni tanto? Dai, il traffico. I funamboli. Pagare qualche stipendio alla signorina Veronica, che si faccia un'attività e assuma due o tre persone, a vedere se poi i tre dipendenti che ha sono sempre contenti del proprio padrone. Potrebbe assumere me, Manera e Peter Vescapè. Sì, cioè, pensa a noi tre sotto Veronica Gentili. Che fatica. Ma io già sono contenta. Cioè, ragazzi. Già sono contenta. Tu, lucidami le scarpe anche, già che, allora, già è che ci sei. Evidente, chiaro. Ma io, cioè, voi fai quel che il prete dice, non fare quel che il prete fa. Se assumo voi tre, altro che lavorare la domenica. Cioè, lasciamo stare, va, guarda. Comunque ringrazio anche oggi per l'ospitalità. Oh, Peter, buongiorno. Anche oggi buongiorno signora Gentili. È un clima un po' acceso, secondo me bisogna riportare il galateo in questo nostro mondo contemporaneo. Sì, quindi nel nostro paese abbiamo messo in piedi questo corso di galateo contemporaneo fatto a teste, e in cui diamo le regole per vivere civilmente, diciamo, nel mondo di oggi. Per esempio, quali di questi comportamenti è ammesso dal galateo contemporaneo? Vediamo. Fare l'amore per strada. Fare l'amore per strada, ma solo nelle posizioni più conosciute per non creare capannelli di curiosi. Ma la risposta esatta è fare l'amore per strada, ma dopo aver chiesto anche agli altri se vogliono partecipare, agli altri passanti, è una cosa di buona educazione. Veronica, che dici? No, vabbè, non diciamo nulla. No, quale di questi comportamenti è ammesso dal galateo? Scambiarsi effusioni in taxi, ma solo col tassista? Risposta esatta, scambiarsi effusioni in taxi, ma solo dopo aver detto al tassista dove si vuole andare, perché se si sale si sta lì. Ha una sua razza. Sì. Allora, quale delle seguenti situazioni ambientate per strada non rispetta il galateo? Non. Una donna che cammina tra due uomini nudi. Non capita neanche spesso di vederlo. Sì. Una donna nuda che cammina tra due uomini vestiti, ma non rispetti il galateo se un uomo nudo cammina cantando canzoni di Giusy Ferreri. perché sono due cose, diciamo, un po' spiacevoli. A un tratto di teatro dell'assurdo. Ma andiamo, esatto, andiamo perché sono due cose spiacevoli entrambe, quindi finché una è per questo. Ha capito. Quale di questi comportamenti salutiamo Giusy Ferreri. Quale di questi comportamenti è il più cortese per un uomo che accompagna a casa una signora in auto? Vediamo. Provare sempre a baciarla per dimostrare che è una bella signora. No. Farle pagare la corsa come se fosse un taxi. No. Tu la riaccompagni a casa. Ah, cioè, con la macchina privata. Certo. Sì. No. Risposta esatta. Insistere per salire con lei in appartamento dicendo che si sono già spesi dei soldi per i profilattici. Mamma mia, questo, ragazzi, ma che livello, altissimo Peter, livello a parpo. Ci ha già speso i soldi per comprare ritardanti stimolanti. L'ho capito, stimolanti. Ma non ce lo rispieghi. Cioè, è rispettoso del galateo che un uomo cede il proprio posto a una signora in autobus? Sì. Aspetta, Milan, che ti do le possibili risposte. Ah, scusa. Sì, ma solo se la donna è incinta. Sì, ma solo se la signora è anziana. Risposta esatta. Sì, ma solo se la signora è incinta e anziana. Cioè, se vedi... Quindi, statisticamente... Va bene, dai, l'ultima, se no facciamo tardi. Sì. Allora, un uomo può tenere il cappello sui mezzi pubblici? Sì. Sì, ma solo se c'è nevischio? No, sì. Mai. Sì, risposta esatta. Ma solo se l'uomo ha una brutta testa. Cioè, questa è, se sei brutto, puoi tenere il cappello che ti si vede meno. Tu, per esempio, Leonardo, qui a fianco a Peter, devo dire che... Io ho una testa regolare, quindi se volete date anche voi le vostre risposte al galateo contemporaneo. È importante essere educati. Sì, certo. Sì, e certo. Lo impariamo da te. No, grazie Peter da parte. Grazie a voi per l'ospitalità. Il cappello va tenuto sempre, se hai la testa... Brutta, no. Irregolare, ci sono quelli che hanno la testa a punta. No, mi veniva una battuta molto... Ah, ho capito. No. No, andiamo a salutare tutti. Oh, lavoratori. Oh, ma sapete che scarseggiano i defurbizzati? Oh, volete farvi defurbizzare perché avete fatto una furbizia? Dovete scriverci a funamboli@radio24.it, noi vi chiamiamo in onda. Lasciati intimorire dal fatto che vi abbiamo detto che uno nell'anno va in galera. Uno solo, mica tanti. Ma infatti, dai. Dai. Ci ritroviamo domani con i Funamboli alle 9. State con noi. Buona giornata. Io vado a preparare la puntata di Natale. Ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do, non ce la fa più. Ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. 13.000 euro netti al mese.